Nella mente di stop. Oh. Vabbè, tutti morti qua. Natalino. Oh. Nella mente di me, bomba. Vengo da fare. Avanti.